domani mattina c'è il residuo e si nota a vista d'occhio, senza microscopio, per cui non lo so sino a che punto, ecco per quale motivo la gente non si fida di consumare l'acqua del rubinetto, ad esempio per i pasti, eccetera. Tutto lì. Vabbè, comunque, è lunga la storia, probabilmente dipende dalla rete idrica, che magari uno ha nella strada dove abita, che arrivano tutti i residui e scende quello. Sono d'accordo con quello che hai detto, vai. Si chiama merdetta alla leggera. Sì, ma non è un problema, che il discorso è molto lungo. Intanto, se a te ti scende del rubinetto sporca è perché tu c'hai l'acqua diretta, non hai un serbatoio d'accumulo come abbiamo noi, perché io non ho mai riscontrato, e dico mai e poi mai riscontrato, l'acqua qua sporca, perché noi abbiamo, siccome noi siamo serviti, quindi Monteolo serve via Milano, per capirci, l'ho già spiegato una volta, via Milano c'è i partitori per tutta la zona alta, ok, quindi abbiamo due serbatoi di accumulo, due, che sono enormi, con la stazione di pompaggio che manda diretta qua a via Milano. Da via Milano a noi ci arriva l'acqua dirette, ok, al serbatoio di accumulo che noi abbiamo qua. Automaticamente non devo insegnare niente a nessuno, quando c'è un serbatoio sappiamo tutti che l'acqua, tutto il sistema di tutto quello che ci può essere dentro, anche se l'acqua è sabbiosa, perché stiamo parlando di sabbia, attenzione, non stiamo parlando di cose sporche, stiamo parlando di sabbia, è sabbiosa l'acqua, automaticamente se tu ce l'hai diretta il colore cambia, diventa marrone perché c'è la sabbia in mezzo. Se tu hai un vascone di accumulo l'acqua scende, ok, e tu quando praticamente vai a pompare l'acqua in superficie è limpidissima, come capita a me, io non ho mai riscontrato niente. Analizzando poi l'acqua mi accorgo a volte sì che è un pochino più carica rispetto a quando viene messa in rete diretta, ma è un problema sempre di impianti di terra cosiddetta condotta, ok, perché non è assolutamente fattibile che un impianto di potabilizzazione come Trucco Reale, Monte Agnese, Pedra Maiore, Birghizu possano mandare in rete quel tipo di acqua, togliamocelo dalla testa, non è possibile, ti chiudono l'impianto. Ma sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, certo, però ciò non toglie che la rubinetta arriva sporca, perché il tuo discorso è sempre quello. Il potabilizzatore, come dici tu, come si chiama, io non lo so, non me ne intendo, tutto perfetto, i controlli ci sono, come dici tu, certo che ci sono, ma ne sono più che convinto anch'io che ci siano. Però alla gente interessa l'acqua che arriva al rubinetto, se poi c'è la rete idrica, i tubi sotto casa, non sono i miei, sono dell'amministrazione comunale o regionale, tu a me mi devi fornire l'acqua pulita. Io vado che me lo chiamo a fare, scusate, ci sentiamo un altro quando... Aspetta! Arriva sporca, il discorso è questo, è la gente... Roberto! È pulita, purtroppo non è pulita, non è sempre pulita, ripeto, io qualche annetto fa, a me persone molto care, l'hanno presa una bottiglia d'acqua e l'hanno portata all'università ad analizzare e l'acqua non era potabile, ecco qual è il discorso, e penso che ancora oggi non sia cambiato il discorso. Comunque ecco per quale motivo la gente allora va e compra l'acqua minerale, eccetera eccetera, per cucinare, per bere, eccetera eccetera. I primi siamo noi beviamo l'acqua a panna e compriamo l'acqua da 17 centesimi per cucinare la pasta, tutto lì. D'altronde la gente fa così, non può avere e usare l'acqua sporca, perché ripeto, c'è sempre un residuo e anche quando sta scendendo il rubinetto si vede l'acqua torbida a vista d'occhio. Tutto lì, vabbè, scusate la mia introduzione, forse sono entrato un po' così a gamba tesa, però il discorso mi interessava e ho voluto chiarire e dire la mia anch'io, dai. Ok, riprendi pure e io intanto vi saluto, anche perché ormai è quasi ora di cena e dunque vi lascio alle vostre chiacchiere, ci sentiamo. Ciao a tutti, grazie, scusate, avanti Claudio. No, non c'è nessuna scusa, e poi l'altro mi deve, dove hanno portato questa bottiglia mi deve far vedere su quale norma l'acqua non è potabile, quali parametri sono al di fuori della norma, perché un'acqua se all'interno i parametri sono buoni, per me è potabile, se poi il colore è diverso è chiaro che io non la bevo perché mi fa schifo, ma non è che dobbiamo dire che i parametri sono furi, attenzione, sono due cose molto diverse, ok? Può essere alta di torbidità, ecco, su questo ci siamo, alta di torbidità, ma non è un parametro che dice che se l'acqua è alta di torbidità l'impianto non ha erogato acqua a norma di legge. Sono cose diverse che purtroppo ci vogliono giorni per poterle fare capire alle persone. Ok, va bene Giulio, dai, anch'io vi saluto, rimando in X perché mi sto preparando per portare il cane. Ciao a tutti. Ciao Claudio, sei mancato di modulazione, ok, sentiamo dopo magari, ciao ciao. Ciao Claudio. Ah, qua, non finivo più. Ciao Claudio di Mulos, se mi ascolti. Anch'io troppo, dai, mi ho detto la pizza. Alla prossima, saluto ma papo, ciao. Ehi, ciao ciao. E Lugaria che vuole portare il cane, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, io sono qua, io dai. Va bene, che me chiede. Tracco, devo di travagli c'è. Sacqua di poco. E poi magari a un mese tra vanni e tra un pochare do bussando. Adesso piano piano quando riprende il ritmo poi già. Ah, bussato di solo, ma... Si prova? Pure a me è un padre così, che noi ci dà un bel poco, che magari ci fermo e poi riprende a lavorare, mamma mia. Infatti. Bisogna lavorare di continuo, capito? Altrimenti è un casino. Poi vabbè, l'importante che invece ha l'udanto da voi. Che è stato gratis? Come? È roba di famiglia, no? Via. Vabbè. Ma in definitiva o in alternativa? Direttamente, cra. Chi? Allora se direttamente già va bene. Ma un dama te l'ho entrata ancora? No, è entrato lo beautiful. Che c'ho dalmata? Amico nostro, tanto non si può dire qua. E voi si ha già compreso. Se mi metto a vedere dentro il letto sono fregato, mi addormento. Lo so, Guglia. Guglia. Mamma mia, che... Le lacrime mi preparavano le redenti, la sadic, di da storia. E di quanto? Naturalmente il mio, di da storia famosa. Ah, di Beautiful. Lo so, Anto, bisogna piano piano cercare di capire. Chissà che mi ha fatto più, mi sa in ritardo, una prima che me ne ha mandato, mamma mia, o la seconda o la prima. Buona la prima. Mamma mia, come sto, me lo seguite di chi? Cosa vuoi fare? Io ho tomato bene di Belgium, se tu vedi foto di persone che io conosco, di buone appignie, no? Vedi, appignie di buone. Per carità. Beh, mi spoglio, sono entrato adesso a portare il cane, freddo non ce n'è però. Dipende da uno come se le fa le foto anche qua, capito mi hai. E detto se te li fai a petto nudo del reggiseno è un casino. E il cappellino. E il cappellino per la bandana. C'è la bomba, tu sì che te ne freghi. Che altra cosa? Che sei giovane? Già lo so già. Se prendendo è che da cosa. Ah no. Sta attento, non puoi la sottosare, mia tu. Sì, già lo dico, non puoi la sottosare. E allora te l'hai mangiata, ma anche l'accetta invece. No, ma no, no, non mi ha compreso me. Io come sto, mamma di turchi. Non mi ha compreso me, no. Come ci ho capito io. Bisogna farlo andare in occhi la goccia. C'è un partitone stasera, Luca, al canale 5 io non lo posso mai dare. Quel canaletto non prende il canale 5, la mazza ne rivaria. C'è il Barcellona, Bayern mi sembra. Come non piglia il canale 5? Ah, Barcellona, Paris Saint Germain. Usciuga. Fatti da ridere, chissà, ciu. Perché non piglia? Perché ho staccato il partitore, capito? Quindi non prende. Non prende, ma non me la fotti nunca, se me la guardo in camera di l'aria. Sta iniziando la Champions, domani c'è Porto Juventus, prova a Rasina Sky, la mazza ne rivaria, che? Non so, Porto d'ora Juventus. A Porto Juventus in Champions, sono rimaste due sole in Champions a far culo, tutti eliminati, vabbè. Vediamo se riesco a guardarmela, la domani me la guardo, se no se la biglia in gomma te lo so, ma... No, quella di stasera è bella, quella me la voglio guardare, se vai Messi, vai Neymar, mi voglio guardare questi grandi campioni del calcio, che... La marita, la voglio guardare, e che ora è? Alle 8:30. Io non ho il computer, se no mandavi sul streaming che te la mai davi. Ehi, infatti... Sarò buono che io me lo pongo nel telefonino. C'è un amico che non mi procura il computer straccobarato, che... Di portateli. Sì, io portatelo da portare, buh. Scappa. Un'altra volta cose già le danno lì. Anche in streaming, via internet. Difesa mia l'ho fatto. Mi sono bucato un poco. La mia schiena. Lei fa male anche a me oggi la schiena, la verità. Sono un po' così. Bene, mi ascolti, Antonio, sì. Ma voi che ti accostumi? Chiappa di roggio. Sono alle prese con questa, con questo rumore di vento, le alternate. Alla bile ti ha potuto il gomo, porcare idee. Se metto un altro microfono già lo senti, ma comunque anche le ventole di questi 24 volts sono un bel rumoroso, io prima non ne avevo rumori. Infatti vi sto eliminando tutto, ne ho staccato tutto, lascio solo questa radio e gli altri le lascio spente, se la biglia di culo. Fai così, cla. Purtroppo. Ma che tu cosa anda, sì? Sei soddisfatto o mezzo? Grande, va tu, già va. Se ti faccio la foto non riconosci più. Diventato tutto nero, bello, tutto rimato, tutto abbassato e tutte le alette, tutto alla pari. Diventato nuovo. No, già funziona, tu, già funziona. Per il lavoro che deve fare già funziona, alla grande, tranquillo. E per non usare 747 uso quello con i baracchini, capito? Capa, no, già va bene, già. Ma ti ripeto, magari più là mi sarò il flash, mi compaggio qualche cosa di più serio, capito? Adesso mi va bene così. Sì, altro se mi comprerà. Ma è roba seria, c'è roba buona tu adesso, non devi comprare più niente, tanto rimunedì gli dirà, già va bene. E io sono sfigato, ho chiamato stamattina al tecnico, le farà un raio, va l'ingarico, le va l'artrosi cervicale, va a rubrasto, non so documenti, insomma la mia radio è ferma. Speriamo che riesca a mandarmela per fine mese, quel 430, beh. Mamma mia, sono vedo rifatto in radio. Oi, cavolo. Lui è il padre, c'è, però ho detto la mia la vuole fare lui, capito, più preparato su quella radio, il padre si occupa più di altre cose. Ah, capo. Per un po' te la farà, cosa vuol dire che ha. Ma cosa, ma c'è la radio? Era un pochettino sostata, cosa va via? Tanto 10 anni che non le faccio niente, solo il frequenzimetro è stato cambiato a quella radio qua a Sassari, da quella persona là, e basta, e c'ha tutte le spinette che si muovono, tutti i falsi contatti, saldature fredde, c'è da fare un bel allineamento, dargli una controllata generale, farle tutto quello che c'è da fare, capito? Avevo un bel di falsi contatti, ma me l'avevano già detto. E quindi ne ho approfittato, gliel'ho mandata, l'ha iniziata, mi ha detto sì, sono a buon punto, sto mettendo tutto il kit delle spinette nuove, tutte le cose, boh, allora fare un raio. E da venere, tutto acciaccato, gatto, non si può manco muovere, la mazza, dine e vari. Mamma mia, gà. Perché abitai in una zona di montagna, c'era un metro di neve, mi ha detto, un freddo, Claudio, l'ho sentito stamattina. Un freddo, c'ho la cervicale, non posso muovere il collo, il braccio non posso sollevarlo. Sì, ma devi già dare, cosa cazzo me la putta male il braccio, dagli a di nero. Ti sta già sulle palle, così? No, poverino, un amico. Siamo diventati amici per telefono, ci conosciamo, mi ha promesso che quest'estate viene in Sardegna, quindi sicuramente ci vedremo. Però poverino è giovane, capito? Ha 40 anni, ne manco. È molto giovane, ma è tutto pieno da ciacchi, peggio di me, boh, ma io nasci 60, barò. Cioè, ma 40 anni è un motore di garraggio. Sì, ma un motore di garraggio, barò. Mi ha elencato un sacco di cose, dice adesso deve fare anche un attacco perché sembra che ci abbia un'ernia inguinale, non so come tu già sei messo bene, madre di Dio si pestaras. Cazzo, Che cosa fa di mestiere? Solo il tecnico fa questo. Sì, sì, sì, è diplomato perito elettrotecnico, industriali, c'ha il laboratorio suo, è pieno di lavoro, modifica baracchini, fa TV, impianti stereo, di tutto, però è molto bravo sugli HF, molto bravo. Che la fa? È un peccato, cavolo. Ma 40 anni tutto quanto butto male. Incredibile qua. Ah, infatti glielo è arrivato martedì scorso, a oggi sono 15 giorni che c'è la radio. Ed ero anche preoccupato, capito, perché gli ho mandato il 140 e una settimana me l'ha fatta e me l'ha mandato giù, allineato, fatto, tutto perfetto. Questa, ho detto, no, ci metterà una settimana, 10 giorni, cazzo aveva già 15 lì, ancora non l'ha finita. Vabbè, già non c'è problema, è l'unica HF che ho, giusto per ascoltare un po', non è che mi interessi più di tanto, per fare due passaggi qua, ma c'ho un Milgazzi, c'ho gli altri baracchini, già non sono a piedi. Là. No, capo, pure quelli voglio usatemi. Sì, io infatti quando me la restituisce, quando me la arriva, la riattacco, la attacco. Sotto commutatore d'antenna già qualche passaggio anche con quella come facevo con le altre, già lo faccio, capito? Lei sa un po' vaia, già me lo ricordo. Io me l'ho detto, l'ho provata appena arrivata al banco e ho detto che è un ottimo vicetrasmettitore. So che tutta bene i vostri contatti, 10 anni, ha detto non c'è più stagno nei circuiti stampati, si muovono tutti i piedini, delle spinette, c'era un integrato che era tutto intaccato e quindi sta facendo tutte queste cose, ma pezzi non ce n'è da cambiare. Componenti non ce n'è da cambiare, l'ho detto controlla se c'è qualche condensatore in perdita, cambia, devono stare lì a cincischiare, ma tu non ti preoccupare, una volta che faccio riprendo tutte le saldature, metto il kit delle spinette nuove, la riprendo piano piano e vedo se c'è qualche altra cosettina da cambiare, te la cambio, capito, ma lo che te la mando che è a posto, revisionata tutta. Capa. E vabbè, dopo 10 anni si guastano, cioè succede qualche cosa, succede, quando sono radio di un certo livello, e sono tu rifai i saldature, magari rifai tutto, non c'è niente la radio, e via. No, la mano sta funzionando, tu, ma stai scherzando, la stavo usando, già. Non è quello il problema. È che una revisione voleva fatta, ne ho approfittato perché ho visto che mi ha fatto molto bene il 140, quello che ho venduto, e allora ne ho approfittato, gli ho mandato quella lì, però non pensavo che stesse male in questo periodo. Vabbè, ti ripeto, no, non ce n'è problema, già va bene. Sì, qualche pochettino di pazienza e via, e poi già ritorno a casa. A me la razza del video mi ha mandato, dicevo, ma dimmi tu che, a che livello si è arrivato che... Mi ha mandato pure a me, il suo video strano. Sì, gira la ruota, dove ci sono la zona la notte la ruota. E mi ha fatto una sorpresa ultimo. E pensavo che la manca giù. Dai consiglia, ma la spaghetti di varia ti si accutende. Allora, prima avete tutta la ruota, gira la ruota, no? Ah, poi alla fine lo biglietto va a andare un circo. A me viene per un manca giù, beh. Ma ti nande. Adesso si sente male, ok? Di notte non ho dormito tanto bene, no? E come mai? Faccia vivi? No, che sarà, non stava bene, cosa, allora poi non c'avevo sonno, ancora di un fatto. Alle 2 di mattino, cioè, non c'avevo sonno, poi quando sono sonno sono un pochettino così, Allora cosa ci ho fatto? Ci ho pigliato per andare di piatti da poi mi sono cominciato a fare i piatti e poi mi sono comburito i bensili della cucina. Hai fatto bene, almeno hai fatto qualcosa, dai. Le 2:30 di notte erano. Io non mi piglia così, mi piglia, ma dopo mi sono contornato a cucca. Oh, e quindi adesso già va bene, dai. Scappa, no, vabbè, adesso già. Poi già l'ha fatto lì tutto il resto. No, mi piglia, mi prende così, cioè se magari sono con mezzo nervoso, ecco, non riesco a dormire, mi prende così. Poi per scaricarmi cosa faccio? Mi pongo a qualcosa. Ehi, non pensare, anche a me a volte capita di fare queste cose. Magari ti sei annoiato, non sai cosa fare, allora mi metto, pulisco magari i cassonetti, i cassoni delle avvolgibili, vetri, queste cose così, capito? Ma no, alle 2 di notte, no? Così mi piglia, no, ma non dai fa. Tanti nobili, tutti mau, quindi no. Già non ti rompo le scatole, c'è stato a caccia un condominio oggi. Ah, sì. Sì, no, adesso non tranquilli, la verità, sono in gamba su quel fatto lì. Un po' di fiacco di fuoco, vabbè, però su quel fatto lì già no. Già sono tranquilli. Ah, già, non c'è problema. Guardi, mi chiamo la padrona del gas, mi ha detto che no. Io pensavo, accanto, mi stavo già mettendo in complesso, ha detto, mamma mia, ma la televisione è qui chiudente. Ma no, che non è fatto, però. E invece cosa ci ho fatto io? Perché siccome non lo sapevo, si è guastato il spartitore di antenna, ne veniva giù di là da durante la messa diretta, e già non potevo più la televisione. Io vedo TV, guardate, era quello lì, l'ho comprato una fuggiata quella che ho piazzato. No, Lucia, mi trovate due messaggi, ha mandato il suo capo e bugnetta. Sant'Antonio mio, guarda cosa ha mandato. A me tanto se te l'ha mandato pure a te. Mamma mia! Che schifo! Mamma mia, che schifo! Sant'Antonio, Nostra Signora delle Grazie! Mamma mia, attenante! Io da gente radio ci accucende! Grazie di Dio! Non sa via! Ehi, ehi, dai, Anto, io lascio tutto acceso qua, se mai ci sentiamo dopo, ok? Che vado a mangiare un boccone, sono già le 9, dai. Meno 10. Ci sentiamo dopo, Anto. Ehi, ok, Luca, ci sentiamo. A dopo, dai, vado a mangiare un boccone e poi già rientro qua, gappa gappa. Buonanotte a tutti, buonanotte, Sarro in trasmissione.